Sì, intanto la manifestazione c'è stata oggi a Tokyo ed è stata una manifestazione di grande successo, perché rispetto ai soliti numeri a cui sono abituati qua in Giappone, adesso non abbiamo ancora l'ufficialità diciamo da parte degli organizzatori, però credo che ci fossero diverse migliaia di persone, una manifestazione popolare proprio con tanti cittadini, famiglie, molto partecipata, anche se è stata lanciata diciamo dalla realtà più di movimento qua di Tokyo e non era centrale come luogo, ma era in una parte un po' fuori la città, ma ha avuto una grande partecipazione, è stato molto molto bello ed è stato sicuramente anche una risposta importante da parte della società civile giapponese alle ultime vicende relative appunto allo tsunami e al rischio di un disastro nucleare dovuto all'esplosione o meno dei reattori della centrale nucleare di Fukushima. Era una manifestazione che aveva come parola d'ordine quella del no al nucleare, ma che ha unito naturalmente anche una critica molto forte nei confronti della TEPCO, che è la società elettrica che gestisce praticamente le centrali nucleari nella loro vita ordinaria e che ha gestito in malo modo anche la crisi che è sopravvenuta dopo lo tsunami, e non sono mancate naturalmente anche le critiche al governo, perché naturalmente stiamo vivendo un periodo qua in Giappone nel quale c'è poca chiarezza su quanto realmente succede dalle parti di Fukushima o quello che è realmente successo, e l'informazione canalizzata praticamente soltanto dalla TEPCO, che tra l'altro è anche uno dei più grandi sponsor delle televisioni nazionali giapponesi, quindi potete immaginare il flusso comunicativo come funzioni, però piano piano diciamo si è mossa la società civile attraverso anche un media center che è stato creato a Sendai, che è il luogo dove c'è stato proprio l'epicentro dello tsunami, e in queste ultime settimane è montata quindi un'organizzazione che ha visto oggi una manifestazione molto partecipata da parte proprio della gente di Tokyo. Per quanto riguarda invece la situazione più generale, c'è stata una scossa di terremoto molto forte giovedì, anche qui a Tokyo l'abbiamo sentita per almeno una ventina di secondi, insomma non è stato molto piacevole, soprattutto nelle zone già colpite la scossa è stata molto forte, mi sembra da 7.4 a livello di scala, e per fortuna non ha creato eccessivi danni se non alcuni morti, ma non ha ulteriormente aggravato le condizioni della centrale nucleare, la cui situazione in questo momento qua rimane ancora avvolta abbastanza nel mistero. Si sa che sono state bloccate alcune fuoriuscite, ma si sa poco di altro. Io sono tornato ieri dopo due giorni a Fukushima, sono andato insieme a dei ragazzi che gestiscono parte degli aiuti come volontari da portare alle popolazioni che sono in questo momento situate in scuole o rifugi perché sono stati evacuati o perché hanno perso praticamente tutto a causa dello tsunami. Siamo andati in macchina, un percorso che sono circa 250 km, ma molto tortuoso perché comunque il terremoto ha provocato gravi danni anche alle strade. Abbiamo fatto la strada litoranea diciamo sulla parte del Pacifico, abbiamo potuto anche vedere quello che rimane dei paesi che sono stati travolti dallo tsunami, e siamo poi andati a portare aiuti a varie scuole e a vari centri di accoglienza dei rifugiati, e abbiamo potuto anche con un apparecchio di rilevazione delle radiazioni abbiamo potuto anche constatare come fuori dai 20 km di evacuazione in effetti i livelli di radiazione siano tutto sommato normali, non troppo più alti di quelli che ci sono quotidianamente in una città, una megalopoli come può essere Tokyo, mentre invece quando poi ci siamo avvicinati all'interno della zona evacuata, senza tra l'altro essere mai contrastati da posti di blocco o poliziotti, ne abbiamo incontrato un paio di volte un paio di macchine, ma dicendogli che volevamo entrare a vedere non abbiamo avuto nessun tipo di problema a entrare. Siamo arrivati fino a 9 km dalla centrale, dal reattore numero 1 di Fukushima, dopo che siamo tornati indietro perché pur essendo attrezzati con tute, maschere, occhiali e tutto il necessario per fronteggiare un eventuale pericolo radioattivo, abbiamo la macchinetta che avevamo con noi, che ci era stata consegnata dall'ingegnere, segnava esattamente oltre il limite di quello che ci era stato detto di spingerci, ovvero 10 microsievert all'ora, e quindi a quel punto diciamo siamo tornati indietro, abbiamo proseguito la consegna di pacchi di cibo, giocattoli per le scuole, cose da leggere agli altri punti di raccolta. E quello che si può dire di questo di tutto questo, al di là della situazione ovviamente di emergenza e al di là della comunicazione che abbiamo potuto vedere in questi giorni qua, quello che ho constatato è stato una completa mancanza praticamente dello Stato giapponese in queste zone, al di là della, del poco presidio da parte dell'esercito di autodifesa, come viene definito qua, per le vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale. L'esercito giapponese non è presente in nessun luogo, puoi fare praticamente quello che vuoi, tanto che alcune persone che sono state evacuate sono tornate nelle proprie case e vivono costantemente, però esposte a livello di radioattività molto alti, che è un conto è starci un minuto secco come quello che ci siamo stati noi, un conto è viverci tutti i giorni. Dopodiché gli aiuti non mancano, nel senso che i giapponesi si sono immediatamente mossi per aiutare i cittadini, la popolazione in difficoltà. Noi abbiamo portato un sacco di pacchi che sono arrivati anche credo via aerea da altri posti del Giappone, con una precisione per noi abbastanza inusuale. Dopodiché però questi aiuti arrivano soltanto dai cittadini, e come molte persone con cui abbiamo parlato all'interno dei centri di accoglienza, quello che veramente manca è un appoggio del governo, che al di là che non manda aiuti, non sta neanche a quanto pare muovendosi per trovare comunque degli alloggi alternativi a queste persone, che quindi rimangono un po', insomma, appese al loro destino, visto che non si sa assolutamente quando potranno tornare nelle proprie case, posto che le case ci siano ancora, perché in alcune zone, soprattutto quelle un po' più elevate rispetto al livello del mare, è ancora tutto abbastanza intatto, ma naturalmente quello più a livello più basso, più vicino al mare, è completamente tutto distrutto. Questo è un po' il quadro generale che ho potuto vedere io in questi 10 giorni che sono qua in Giappone, tra Tokyo, e ho girato un po' appunto nelle zone più o meno limitrofe della provincia di Fukushima, e questo è anche quanto, diciamo, sappiamo. Per fortuna oggi la manifestazione sembra essere andata molto bene, vedremo poi che ricadute politiche avrà, perché naturalmente un conto è la risposta, diciamo, dei cittadini, e un altro conto poi saranno le mosse del governo. Senti, l'altro giorno, quando c'è stata la scossa di 7.2 che è durata, quella che hai detto tu, qui hanno dato notizia che un'altra centrale nucleare è entrata in crisi e fuoriuscita forte quantità d'acqua radioattiva in un'altra centrale che sta a 80 km da Fukushima. Cioè, e qui ha allarmato la Corea. Sembra, cioè, dalle notizie che dicono qua, perché hanno paura che stanno scaricando tutta quest'acqua radioattiva in mare, creando problemi seri per la, diciamo, catena alimentare, sì, da quelle zone. Certo. Allora, intanto quello che posso dire è che vi inviterei a prendere con molta precauzione i titoli, soprattutto dei mezzi di informazione più mainstream che abbiamo noi in Italia. Anche perché qui hanno costruito un sito internet che si chiama proprio il muro della vergogna, dove mettono tutti gli articoli che secondo, diciamo, i giapponesi sono eccessivamente sensazionalisti o troppo propensi al panico, e la quantità di articoli italiana non si spreca all'interno di questa lista. Dopodiché c'è stata la TEPCO ha detto che ha riversato in acqua una non so quante tonnellate, 11.000, non so, scusate, chiedevo all'Aifia un aiuto, non so quante tonnellate di radiazioni in acqua, ma sempre da Fukushima. Per quanto riguarda l'altra centrale a cui accennavi, in realtà è stato detto immediatamente che non c'è stato nessun problema, cioè questo un minuto dopo la scossa c'è stata una conferenza stampa da parte della TEPCO in diretta pubblica, in cui hanno detto che era tutto sotto controllo. Ora, ovviamente, che la TEPCO dica che è tutto sotto controllo non è la garanzia al 100% che sia effettivamente tutto sotto controllo, però qua in Giappone notizie allarmanti rispetto ad altre fuoriuscite radioattive da altre centrali non ce ne sono. Io ho letto anche degli articoli in cui si parla che l'America è terrorizzata dal cibo dei ristoranti giapponesi, cioè non so sinceramente quanto siano vere o meno, magari nel tempo potrà essere pericoloso visto che si è riversata una quantità di radiazioni in acqua, e quindi non sono un esperto nucleare, quindi non è che posso dire sì o no con nettezza. Quello che posso dire da qua è che non è stato ufficializzato alcun problema a nessun'altra centrale in questo momento, fino ad oggi. Ok, va bene Simone, noi ti ringraziamo per, per la corrispondenza, insomma, a breve sicuramente ne rifaremo altre in settimana per capire, insomma, come si aggiornano, insomma, le condizioni attuali. Ti ringraziamo e ci risentiamo, insomma, questi giorni. Grazie a voi, buona giornata, buona domenica. Anche a te, ciao. Ciao. Ciao.